Non respiro, non ho più fiato, è un pozzo profondo. Si siedono al bar dei ricchi solo per mostrare i denti. Mai un passo indietro, mai un passo avanti. Vivono vendendo morte con tutti gli anelli alla luce del sole. Vivono da reclusi, una vita criminale. Osanna, osanna, osanna a tutti gli uomini che hanno pazienza. Osanna, osanna, osanna a chi tenace non getta la spugna. Osanna, osanna, osanna per chi cammina su una strada infuocata, eppure non si perde d'animo e spera ancora in una nuova vita. L'uomo che si compiace delle proprie vergogne, odia se stesso al punto di sputare su chi dissente. Le loro cupole di menzogne, arco respiro, fiato velenoso, con la camicia bianca, la giacca blu ti spara in viso, narcotici televisivi, seminano terra bruciata, arlecchini camuffati da politici. Ti sbattono in faccia una frittata, sfrecciano le loro arringhe a memoria su fili spinati. La loro ragione è un collasso, una collana di insulti infiniti. Osanna, osanna, osanna a tutti gli uomini che hanno pazienza. Osanna, osanna, osanna a chi tenace non getta la spugna. Osanna, osanna, osanna per chi cammina su una strada infuocata, eppure non si perde d'animo e spera ancora in una nuova vita. Nel tempio del progresso avanzano spregiudicati ai piedi del palazzo, cani da guardia, cani randagi, a forza di mostrare al mondo i propri artigli, ci si dimentica di chi nel sangue ha perso i propri figli. Delle lucertole giganti per colazione, notizie avariate, corvi ammuffiti e teste piene di sangue, schizofrenici sughi inscatolati, avariati pensieri assatanati, sguardi bruciati dall'omertà e tanti occhi ammutoliti. Osanna, osanna, osanna a tutti gli uomini che hanno pazienza. Osanna, osanna, osanna a chi